Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, buona domenica, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Strade Motori. Innanzitutto è doveroso ringraziarvi per l'attenzione, per l'affetto con cui avete seguito la nostra puntata d'esordio, come ogni prima volta che si rispetti. Tante sono le cose che possono essere migliorate, poi sappiamo che il pubblico di Radio 24 è attento ed esigente, quindi aspettiamo i vostri suggerimenti via mail al nostro indirizzo che è stradeemotori@radio24.it. Aspettiamo numerosissime le vostre lettere, segnalazioni di problemi, di servizi, ma perché no, anche qualcosa che funziona al meglio quando si parla di mobilità, che poi è il tema al centro della nostra trasmissione. E oggi tocchiamo il classico tema che fa arrabbiare tutti noi automobilisti, le multe che sono al centro di un'inchiesta che sta facendo discutere del mensile Quattro Ruote. Poi spazio anche agli amici motociclisti con una scadenza che li riguarda ed infine scopriremo quante sono in Italia le stazioni di servizio che offrono carburanti alternativi, quindi il GPL o il metano, e se trovarle queste aree di servizio è ancora praticamente una caccia al tesoro. Allora inizia il nostro viaggio di strade e motori, ma partiamo da quelle che saranno tutte le novità per quanto riguarda le auto di questo inizio del 2010. È arrivato il momento di dare un'occhiata a quelli che sono i modelli in uscita in questa prima parte del 2010 e lo facciamo, ed è un piacere salutarlo, il nostro ospite Mario Cianflone, responsabile della redazione motori del Sole 24 Ore. Buona domenica Mario, ben trovato. Buona domenica a tutti voi. Buon pomeriggio. Allora Mario, innanzitutto facciamo un po' un quadro della situazione. Come parte il 2010 dal punto di vista, come dire, dell'utente finale? Cioè cosa si trova oggi chi vuole comprare un'auto nuova? Quali linee di tendenza puoi ritrovare in questo inizio d'anno? Ma sicuramente dopo lo scorso anno è stato veramente un anno drammatico nell'industria dell'auto. Quest'anno l'industria mondiale riparte con la raffica di nuovi modelli da raccoprire tutte le nicchie, con offerte tagliate su varie fasce di pubblico, in particolare l'attenzione su compatte, medie e ovviamente su vetture con propulsione alternativa e ibride, però quella comunque resta una nicchia. Partiamo dal modello che è stato presentato la scorsa settimana a Parigi. C'era grande attesa per un modello che doveva un po' rinverdire i fasti del passato. Partiamo da Citroën, raccontaci tutto tu. Allora, Citroën ha svelato in via definitiva, con anche le prove per i giornalisti, la Citroën DS3. Porta un nome importante perché porta il nome della leggendaria DS, la macchina forse più nota Citroën, che è nel cuore di molti appassionati. Ovviamente non ha nulla a che vedere con quella vettura, a iniziare dalla sospensione idropneumatica, è una vettura più piccola. In realtà la DS3, che è una vettura che si può customizzare, rendere personale con allestimenti, colori, abbinamenti, una infinità di varianti, e l'anti-mini del Dobro Chevron della casa francese. È una vettura che si colloca sulla fascia più alta del segmento B, quello delle utilitarie, è una macchina di pregio, una compatta da città. Chiaramente nel mirino c'è la Mini. Mario, questa tendenza di andare un po' a riscoprire nel passato linee, gusti, viene un po' pochino anche dalla Fiat, no? Che con il rilancio della 500 ha iniziato questa operazione. È un'operazione che ha successo secondo te oppure rischia di non averne? Ma nel caso della DS3 sicuramente non avrà successo, secondo me, perché la vettura è interessante, ha un design innovativo, non è un'operazione retro come può essere quella della 500 che ha avuto successo, ma bisogna vedere quanto sarà replicabile. Non è un'operazione come quella del New Beetle di qualche anno fa o come la Mini. Tra l'altro sta diventando un'offerta molto ampia, sta arrivando in casa BMW Mini il quarto modello, che è un crossover con gli stilemi classici della Mini, però quattro porte più portellone, vettura alta. È una macchina, il quarto modello di una gamma completa, ed è un'operazione retro che sta diventando una linea vera e propria di automobili con un'offerta ampia. Nel caso della DS3, l'idea di costruire sulla stessa base della C3, che pure con parabrezza Zenith che va a scoprire fino a metà del padiglione, è una vettura innovativa dal punto di vista del design, di offrire qualcosa in più a chi vuole una macchina molto personalizzabile in termini di colori, allestimenti, aggressiva, particolare, per chi vuole farsi notare. Mario, invece l'Audi cosa sta preparando per chi vuole una macchina anche qui, da città? L'Audi sta preparando, sta calando la sola manica sulla Audi A1, la più piccola della casa dei quattro anelli. Sarà una vettura su base Volkswagen Polo, chiaramente con la raffinatezza e l'appeal di un brand che è molto ambito, un brand più cool dell'automobile ultimamente. Una vettura compatta, aggressiva, c'è molta attesa anche dal punto di vista mediatico. La strategia della casa tedesca è simile a quella che abbiamo visto anche nei giorni scorsi con Apple, con il lancio del tablettone, dell'iPad. Fare progressivamente del leakage di informazioni, man mano creare l'attesa, pubblico e media che stanno dietro. Stessa cosa sta facendo Audi, ha iniziato a farla vedere su un murales a Los Angeles, una foto di un prototipo qui, una versione definita dall'altra parte. L'attesa ovviamente è grande, perché questa è un'altra anti-mini e si colloca anche non nella stessa fascia di mercato, ma nella fascia, diciamo, di gusto delle persone che hanno capacità di spesa, quindi tra la 500 e la mini è un'alternativa delle segmento sempre più popolato delle piccole premium, cioè piccole lusso. Segmento che Audi non ha mai frequentato troppo in passato. Non c'è una grande tradizione di auto di questo tipo Audi, no? Non ha una tradizione di questo tipo. Anni fa era uscita l'Audi A2, che è stato sostanzialmente un flop. Va ricordato che però negli anni 70 c'erano vetture come l'Audi 50, che altro non era che la vecchia Volkswagen Polo Derby fabbricata in comune, però erano gli anni in cui ancora Audi non aveva questo appeal, ancora aveva l'eredità di Prince. Da altri tempi. A proposito di altri tempi che tornano, perché vedi, poi c'è il filo conduttore di questo inizio 2010, sono i vecchi tempi che ritornano. Un nome storico dell'auto italiana, cioè il nome Giulietta, che tornerà presto sul mercato prima e sulle strade poi. L'Alfa Romeo, insomma, si prepara anche qui, come dicevi tu, a calare un asso importante, la Giulietta nuova. E la Giulietta nuova è una vettura sicuramente importante, doveva chiamarsi Milano per ragioni di opportunità, visto che a Milano sostanzialmente Alfa ha dismesso ogni tipo di attività. Utilizzerà un nome che era destinato in realtà per una vettura sportiva, viene utilizzato un nome marchio icona per una vettura che è importante, una media che sostituisce la 147 e ci fa provare in anteprima quello che sarà il pianale delle vetture medie, il pianale per le macchine segmento C del gruppo Fiat, è sicuramente un punto chiave per la sopravvivenza stessa di Alfa Romeo. Fino adesso i risultati non sono stati eclatanti, c'è stato appena la settimana scorsa un cambiamento al vertice in Alfa Romeo, Marchionne la sta tenendo in osservazione. A quanto pare questo è l'ultimo progetto realmente approvato e si vedrà in futuro cosa succederà di Alfa. La macchina, dalle foto che sono apparse fino adesso, poi ci sarà una prepresentazione venerdì prossimo, è sicuramente interessante, ha un aspetto che sembra quello della Mito, però pantografata, fa leva su emozione e sportività. Tra i punti chiave ci sarà sistema di gestione personalizzata, assetto e propulsione, il famoso sistema di NLA, che dovrebbe permettere al guidatore di settare la macchina a seconda della propensione all'utilizzo, guida sportiva, guida confortevole, e agisce parzialmente sulle sospensioni e sulla taratura della centralina di iniezione e gestione motore. Mario, per concludere, una macchina che piace all'alfista, secondo te questa, che è in linea con la tradizione? Giudicare dalle foto che abbiamo visto difficile. Fino adesso è probabile, soprattutto magari in allestimenti con cerchi di generose dimensioni, passaruote allargate, la linea di cintura molto alta, molto aggressiva, il muso proteso in avanti. Siamo in attesa di vedere la plancia, a quanto pare, anche secondo rivista autorevole, con quattro ruote, è stata rifatta ben tre volte e la versione definitiva è fuori dai canoni recenti Alfa, ma è più simile a quella che possiamo vedere su una BMW serie 1, quindi una plancia lineare. Probabilmente l'idea è quella di fare un prodotto concreto che piaccia a utenze in grado di comunque spendere per una vettura di segmento C, ma con contenuti premium. Grazie a Mario Cianflone, grazie responsabile della redazione motori del Sole 24 Ore. Domani è appuntamento importante in edicola, lo ricordi tu, Mario? Domani sul Sole 24 Ore lunedì ci sarà il consueto appuntamento con la pagina motori, e l'apertura sarà dedicata a DS3 e a un, mentre il taglio basso ha una vettura molto, molto interessante, si chiama Kia Venga. Parte il nome che ha creato parecchie discussioni, immaginabile. È un monovolume compatto segmento B, quindi segmento della Musa per intenderci, e con contenuti molto interessanti per la classe di prezzo e per il tipo di design. Un'auto coreana progettata in Europa e costruita in Europa. Vedremo se piacerà al grande pubblico. A proposito di pubblico, Mario, resta con noi perché adesso facciamo arrabbiare un po' i nostri radioascoltatori, continua a seguirci perché parliamo di multe, quindi c'è veramente da arrabbiarsi parecchio. Ci credo. Grazie e buon pomeriggio. Sul mensile Quattro Ruote che trovate in edicola è dato grande spazio e grande risalto al tema delle multe e si dà in qualche modo corpo a quelle storie di chi si scontra con la frase «Le multe servono ai comuni per far cassa». Buona domenica, Mauro Tedeschini, buona direttore di Quattro Ruote. Buona domenica. Allora, direttore, è una frase che sembra un po' buttata lì, le multe per far cassa, però poi quando ci si scontra con storie come quelle che avete raccontato voi, insomma, lasciano un po' pensare, no? Sì, c'è una tendenza, secondo noi sbagliata, ad aumentare continuamente gli importi delle multe, facendo sì che di fatto in Italia chi ha più possibilità economiche alla fine paga e non ne ha delle grandi conseguenze, mentre chi invece possibilità economiche non ne ha rischia veramente di restare a piedi. Secondo noi è una strada appunto sbagliata, perché chi è pericoloso andrebbe fermato e non appunto rovinato. E noi raccontiamo questa storia veramente sconcertante di un comune in Liguria, abbastanza conosciuto perché è anche un comune turistico, Lerici, in cui il comandante dei vigili urbani, essendosi opposto al fatto che venissero inviate migliaia di verbali che erano stati così redatti con degli apparecchi di misurazione della velocità o di vaglio dell'ingresso nel centro storico molto dubbi dal punto di vista appunto della loro taratura, della loro validità, è stato licenziato in tronco con cause e quant'altro, nonostante che in passato fosse stato più volte premiato per la sua efficienza, il suo zelo e la sua capacità di organizzare il corpo della polizia municipale. Direttore, voi però non vi limitate a denunciare questa situazione, ma effettuate anche delle proposte concrete. Da dove partire? Ma noi intanto partiamo da una raccolta di firme online sul nostro sito quattroruote.it, perché sta per arrivare in porto in Parlamento, adesso ci dovrebbe essere l'ultimo passaggio alla Camera, una serie di modifiche al codice della strada che appunto aumentano l'importo delle multe anche in maniera molto consistente, per cui si arriva a pagare anche 500 euro per le infrazioni che non sono poi così gravi, mentre viene diminuito il numero dei punti che viene sottratto in caso appunto di queste infrazioni. Ecco, qui bisogna dire con chiarezza che è una tendenza esattamente opposta a quello che sta avvenendo in tutta Europa, perché nel resto d'Europa la patente a punti funziona, funzionano i corsi di recupero e, come dicevo prima, i recidivi vengono fermati per qualche mese, per un anno, per qualche anno, perché questa è la cosa che conta, mentre invece qui si tende un pochettino a caricare la parte sanzionatoria, perché sia lo Stato che i comuni sono in questo momento più che mai assettati di soldi. Raccontiamo per esempio il caso di una donna che, essendo stata fermata mentre aveva un tasso alcolico sopra il consentito, ha avuto tra tutte le varie sanzioni ammende sommate 24.000 euro appunto di sanzione, mentre secondo noi il problema sarebbe quello di fermare questa donna e far sì che non guidi più, perché per esempio gli incidenti causati da persone in stato di ebbrezza sono molto spesso causati da recidivi e quindi queste persone vanno fermate prima che facciano danni a sé e agli altri, piuttosto che pensare a fare cassa con qualche migliaia di euro appunto. Grazie allora al direttore di Quattro Ruote Mauro Tedeschini, buona domenica direttore, in bocca al lupo per questa vostra iniziativa. Grazie, buona domenica a voi. Strade e motori. Strade e motori. Ora le notizie della mobilità della settimana, poi a Strade e Motori scopriremo dove fare il pieno di metano e GPL in Italia, cosa che, come molti automobilisti sanno, è un'impresa non facilissima. Due settimane di cassa integrazione negli stabilimenti di Fiat Auto in Italia. Il Lingotto ha deciso di chiudere le fabbriche nell'ultima settimana di febbraio e nella prima di marzo, coinvolti circa 30.000 lavoratori. Il ministro dello sviluppo e delle attività produttive, Claudio Scajola, ha definito inopportuna la decisione di Fiat. Inquinamento. Sono Napoli, Torino e Ancona le città che superano per più giorni all'anno i limiti di legge per le concentrazioni di polveri sottili. Il capoluogo campano è in testa alla classifica di Legambiente con 156 giorni di sforamento nel 2009. Tra le regioni guida la Lombardia, dove 9 città su 10 hanno superato i limiti. La Saab passa di mano. La casa costruttrice svedese è stata ceduta dalla General Motors al gruppo olandese della Spyker, specializzato in vetture sportive. L'accordo raggiunto in settimana ha un valore complessivo di 400 milioni di dollari. All'acquisto di Saab, in passato, si era interessata anche Fiat. Aumentano in Italia i casi di pirateria della strada. Negli ultimi 12 mesi sono stati 482, oltre 150 in più rispetto al 2008, con un aumento record del 49%. In 3 casi su 4 il pirata della strada, ovvero chi commette infrazioni gravi senza fermarsi a prestare soccorso, viene individuato dalle forze dell'ordine. Iniziamo la seconda parte di Strade e Motori parlando di un argomento che sta molto a cuore a tanti automobilisti, perché nel nostro paese è in continuo aumento la diffusione delle vetture alimentate a gas o a metano, a discapito di quelle a benzina e gasolio. Parlano chiaro i dati che sono stati recentemente pubblicati e resi noti. Nel 2010, con gli incentivi, questa percentuale di auto alimentate con carburante non tradizionale, chiamiamolo così, è destinata ad aumentare. Ma come e dove si riforniscono queste autovetture? In Italia non è stato mai facile, ad essere sinceri, trovare pompe multicarburante. Ne parliamo con Renzo Servadei, che è amministratore delegato di Promotech, il cui osservatorio nei giorni scorsi ha pubblicato proprio uno studio, una riflessione sulla materia. Servadei, buona domenica, grazie per essere con noi. Buona domenica a voi. E allora partiamo proprio da qui. Quante sono in Italia le cosiddette pompe multicarburante rispetto agli altri paesi europei? Siamo in deficit oppure siamo in linea come diffusione? Siamo abbastanza in deficit, nel senso che da noi, tanto che si parla di ristrutturazione della rete, però sostanzialmente le cose vanno molto a rilento, e al di là di un aspetto di chiaramente redditività della rete, perché è una rete ancora molto frazionata e quindi in quanto tale, diciamo, il numero di litri erogati per distributore è abbastanza basso rispetto ad altri paesi d'Europa, però il problema è sostanzialmente che è una rete che non si ristruttura, a fronte invece di una parco veicolare che si sta estremamente invece ristrutturando, nel senso che sulla base proprio di quelle riflessioni che abbiamo fatto nel 2009, per dare qualche dato, le immatricolazioni di vetture a gas, sono intendendo per gas sia metano che GPL, certo, sono state 22 su 100, con un fortissimo aumento rispetto al 2008, quando ad esempio erano state solamente 7 su 100, quindi ci sono tanti più vetture che viaggiano a gas, mentre diciamo il parco diciamo dei distributori carburante non incrementa in maniera diciamo adeguata rispetto al cambiamento del parco circolante. Altrettanto importanti come numeri. Ecco, Servadei, per quanto è possibile, insomma, stilare una mappa in questo momento, le pompe multicarburante sono più diffuse al nord, al centro, al sud Italia? C'è una diffusione omogenea, uniforme o no? Ma diciamo che ci sono anche delle questioni di natura normative. Ci sono alcune regioni, per esempio una di queste è l'Emilia-Romagna, dove se si deve inserire una nuova pompa è necessario avere una pompa multicarburante, però diciamo che storicamente, per quanto riguarda la distribuzione del gas, il gas è più diffuso al nord, quindi ci sono alcune regioni dove è più facile fare rifornimento. Citavo il caso dell'Emilia-Romagna, dove ci sono tantissime pompe sia diciamo multicarburante, ma anche pompe che erogano sia gas che sia metano che GPL, mentre al sud e sulle isole è diciamo un attimino più complesso. Ecco, però la situazione sta migliorando e ovviamente l'auspicio è che migliori sempre di più, in modo da far sì che il servizio agli automobilisti sia importante, perché è chiaro, certo, che i carburanti ecologici, se poi non c'è la possibilità di fare un rifornimento in maniera adeguata, poi hanno delle limitazioni, questo è chiaro. Servadei, per concludere, è possibile intervenire attraverso una legge? Insomma, è possibile che il Parlamento o i vari parlamenti regionali possano in qualche modo aiutare la diffusione di queste pompe multicarburante? Secondo noi è assolutamente auspicabile questo tipo di discorso, perché una moderna distribuzione non può prescindere dal fare un servizio anche a questo tipo di motorizzazione che, ripeto, non è più marginale, perché nel 2009 sono ormai 22 su 100, quindi stiamo parlando di un quinto della immatricolato che aveva questi tipi di carburanti, e quindi diventa una necessità e un imperativo assoluto, soprattutto se vogliamo che questo trend rimanga, si consolidi. E se vogliamo evitare che gli automobilisti debbano fare chilometri e chilometri per trovare il modo di fare il pieno, di fare il rifornimento alla loro vettura. Grazie a Renzo Servadei, amministratore delegato di Promotech. Ci risentiamo presto, buon lavoro, buona domenica, a presto. Grazie a lei di nuovo. Ed ora ci rivolgiamo direttamente ai motociclisti. Ora parliamo di revisioni, le revisioni che non riguardano soltanto chi possiede un'auto, ma anche chi ha una moto che deve essere revisionata con una certa continuità e con delle scadenze molto precise e molto importanti. Sono tanti gli italiani un po' smemorati, quelli che dimenticano queste scadenze. È per questo che vogliamo creare un vero e proprio memorandum, un promemoria, e lo facciamo grazie al contributo di Andrea D'Alisca, direttore generale di Decra Revisioni. Buona domenica, D'Alisca. Buona domenica a lei. Iniziamo subito a ricordare, quando è che bisogna fare la revisione della moto? La revisione va fatta la prima volta dopo 4 anni, nel mese coincidente al mese dell'immatricolazione del veicolo, e successivamente ogni 2 anni, sempre nel mese nel mese corrispondente a quello in cui ho fatto la revisione. Cosa rischia chi si dimentica o comunque non provvede alla revisione? Una sanzione pecuniaria, diciamo, per i veicoli che sono abilitati all'autostrada, anche il sequestro del veicolo nel caso. Sanzione di quanto? Da 100, circa, diciamo, 150 a 350 euro, a seconda se sono in autostrada, che è la sanzione massima, e poi è anche aggravata dalla omessa revisione, magari ripetuta, ecco. Però la revisione va fatta non perché c'è una sanzione da pagare, ma perché il veicolo revisionato è più sicuro, no? No, infatti, di fatto la revisione ha un'importanza enorme nell'ambito della sicurezza e dell'ambiente. In molti casi, molti veicoli, superato il periodo di garanzia e quindi dei tagliandi obbligatori, vengono abbandonati a se stessi per quanto riguarda la manutenzione, e la revisione dopo 4 anni in molti casi è la prima occasione per far effettivamente controllare il proprio mezzo. Qual è il problema più comune che riscontrate? Sicuramente sono pneumatici e freni. Non far riparare il veicolo, non tenerlo in ordine è una negligenza forte. Ci possono essere tante giustificazioni, specie in periodi di difficoltà economica come questo, però non voglio, diciamo, sollevare polemiche, ma il diritto alla mobilità non implica necessariamente il diritto ad andare in giro con un veicolo pericoloso per se stesso e per gli altri, ecco. E con questo messaggio che ci lasciamo. Grazie ad Andrea D'Alisca, direttore generale di Decra Revisioni, buona domenica e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buona domenica. È tutto allora per questo appuntamento con Strade e Motori. Veniteci a trovare sul sito radio24.it per approfondire tutti i temi che abbiamo toccato oggi, e soprattutto continuate a raccontarci la vostra mobilità quotidiana. Questo è un tema che abbiamo già lanciato la scorsa settimana e di cui torneremo sicuramente a parlare. Via mail all'indirizzo stradeemotori@radio24.it potete raccontarci appunto il vostro viaggio di tutti i giorni per andare al lavoro, per andare a scuola, per andare a trovare il vostro compagno, la vostra compagna, per andare all'università. Vogliamo sapere che strada fate, se è una strada urbana, se è una strada extraurbana, se è un'autostrada, in che condizioni è, quali sono le situazioni del traffico, che tipi di incontri e di problemi trovate tutti i giorni. Insomma, scriveteci stradeemotori@radio24.it e vi daremo spazio nelle prossime settimane. Grazie allora per aver viaggiato con noi, grazie a Peter Bescape per averci guidato in regia. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 24.